Dove mi trovo? Riuscì a balbettare Tao Qian. Benvenuto a bordo del Liberty, a quanto pare si va a ovest. Ma io non voglio andare da nessuna parte. Devo scendere immediatamente. Le sue intenzioni scatenarono nuove risate. Quando alla fine riuscì a controllare l'ilarità, l'uomo gli spiegò che era stato ingaggiato, tra virgolette, giusto come era capitato a lui un paio di mesi prima. Tao Qian si sentì sul punto di svenire. Conosceva il meccanismo. Quando mancavano uomini per completare un equipaggio, si ricorreva alla pratica sbrigativa di ubriacare o stordire con una sprangata in testa qualche incauto che veniva poi reclutato contro la sua volontà. La vita di mare era dura e mal pagata, gli incidenti, la denutrizione, le malattie facevano stragi. In ogni viaggio ne moriva più d'uno e i corpi andavano a finire in fondo all'oceano senza che nessuno si ricordasse di loro. Inoltre i capitani erano generalmente despoti che non dovevano rendere conto a nessuno e che punivano a frustate qualsiasi mancanza. A Shanghai era stato necessario che i capitani arrivassero a un accordo tra gentiluomini per limitare il sequestro di uomini liberi e non portarsi via reciprocamente i marinai. Prima dell'accordo, ogni volta che un marinaio scendeva in porto a farsi un goccetto, rischiava di svegliarsi su un'altra nave. Il pilota del Liberty aveva deciso di rimpiazzare il cuoco morto con Tao Qian. Ai suoi occhi i gialli erano tutti uguali e uno l'altro faceva esattamente lo stesso. E dopo averlo ubriacato, l'aveva fatto trasportare a bordo. Prima che si svegliasse, aveva impresso l'impronta del suo pollice su un contratto che lo vincolava ai suoi servizi per 2 anni. Lentamente le proporzioni dell'accaduto presero forma nel cervello confuso di Tao Qian. L'idea di ribellarsi non lo sfiorò nemmeno, equivaleva a suicidarsi, ma si propose di disertare non appena si fosse toccata terra in qualsiasi punto del pianeta. Il giovane lo aiutò ad alzarsi e a lavarsi e poi lo condusse nella stiva dove erano allineate cuccette e amache. Gli assegnò il suo posto e un cassetto in cui riporre i suoi oggetti. Tao Qian, che credeva di aver perso tutto, vide invece la valigetta degli strumenti medici sulla pedana di legno che sarebbe servita da letto. Il pilota aveva avuto la buona idea di metterla in salvo, il ritratto di Lin invece era rimasto sull'altare. Si rese conto con orrore che forse lo spirito di sua moglie non sarebbe stato in grado di localizzarlo in mezzo all'oceano. I primi giorni di navigazione furono un supplizio di malori e venne spesso tentato dall'idea di buttarsi a mare e mettere così fine, una volta per tutte, alle sue sofferenze. Appena fu in grado di reggersi in piedi, venne destinato alla rudimentale cucina in cui tutte le cianfrusaglie appese ai ganci si urtavano a ogni ondeggiamento, producendo un baccano assordante. Le provviste fresche caricate a Hong Kong si esaurirono rapidamente e ben presto non rimasero che pesce, carne salata, fagioli, zucchero, strutto, farina piena di vermi e gallette talmente vecchie che spesso bisognava spezzarle a colpi di martello. Qualsiasi alimento veniva condito con salsa di soia. Ogni marinaio aveva a disposizione una pinta di acquavite al giorno per sopportare le pene e sciacquarsi la bocca, perché le gengive infiammate erano uno dei problemi della vita di mare. Per i pasti del capitano, Tao Qian poteva avvalersi di uova e marmellata inglese che doveva proteggere con la sua stessa vita, come gli aveva ordinato. Le razioni erano previste per una durata della traversata calcolata senza che insorgessero impedimenti naturali, come burrasche che li facessero deviare dalla rotta o mancanza di vento che li bloccasse, e andavano integrate col pesce fresco catturato con le reti durante il viaggio. Non ci si attendeva talento culinario da Tao Qian. Il suo compito era controllare gli alimenti, il liquore e l'acqua dolce assegnati a ogni uomo e combattere contro il deterioramento e i topi. Doveva anche assolvere i compiti di pulizia e navigazione come qualsiasi altro marinaio. Dopo una settimana iniziò a godere dell'aria aperta, del lavoro rude e della compagnia di quegli uomini che venivano dai quattro punti cardinali, ognuno con le sue storie, le sue nostalgie e le sue peculiarità. Nei momenti di riposo suonavano qualche strumento e raccontavano storie di fantasmi di mare e di donne esotiche in porti lontani. Gli uomini dell'equipaggio venivano da luoghi diversi, avevano lingue e abitudini diverse, ma erano uniti da qualcosa che assomigliava all'amicizia. L'isolamento e la certezza di aver bisogno l'uno dell'altro trasformavano in compagni uomini che sulla terraferma non si sarebbero neanche guardati. Tao Qian riprese a ridere, come non faceva dai tempi della malattia di Lin. Una mattina il pilota lo chiamò per presentarlo al capitano John Somers, che lui aveva visto solo da lontano nella cabina di comando. si ritrovò davanti a un uomo alto, indurito, dai venti di molte latitudini, con una barba scura e occhi d'acciaio. Si rivolse a lui con la mediazione del pilota, che parlava un po' di cantonese, ma Tao Qian gli rispose nel suo inglese libresco, con l'affettato accento aristocratico appreso da Ebenezer Hobbs. «Mi ha detto Mr. Oglesby che sei una specie di guaritore». «Sono uno Chong Yi, un medico». «Un medico? Come un medico?» «La medicina cinese è più antica di quella inglese di qualche secolo, capitano», sorrise dolcemente Tao Qian utilizzando le precise parole del suo amico Ebenezer Hobbs. Il capitano Somers sollevò le sopracciglia in segno di collera per l'insolenza di quell'omino, ma la verità lo disarmò e scoppiò a ridere di gusto. «Coraggio, Mr. Oglesby, serva tre bicchieri di brandy. Brindiamo con il dottore, è un lusso molto raro, è la prima volta che abbiamo un medico personale a bordo». Tao Qian non realizzò il proposito di disertare al primo porto che il Liberty toccò, perché non sapeva dove andare. Tornare alla sua disperata vita da vedovo a Hong Kong era insensato, come proseguire la navigazione. Qui o là faceva lo stesso, almeno come marinaio aveva la possibilità di viaggiare e di imparare i metodi di cura usati in altre parti del mondo. L'unica cosa che lo tormentava davvero era che in quel vagare di onda in onda Lin forse non sarebbe riuscita a individuarlo per quanto lui gridasse il suo nome ai quattro venti. Al primo porto scese a terra insieme agli altri con un permesso di 6 ore, ma invece di dirigersi in una taverna, si perse al mercato alla ricerca di spezie e piante medicinali su incarico del capitano. «Dal momento che abbiamo un dottore, abbiamo anche bisogno di rimedi», aveva detto. Gli aveva dato un sacchetto con monete contate e l'aveva avvertito che se avesse pensato di scappare o di ingannarlo, lui l'avrebbe cercato finché non l'avesse trovato e poi gli avrebbe mozzato il collo con le sue mani, perché non era ancora nato l'uomo che poteva farsi beffe impunemente di lui. «Chiaro cinese? Chiaro inglese? Un po' di rispetto!» «Sì, signore», replicò Tao Qian abbassando lo sguardo, dato che stava imparando a non guardare i bianchi in faccia. La sua prima sorpresa fu scoprire che la Cina non era il centro assoluto dell'universo. C'erano altre culture, più barbare, certo, ma molto più potenti. Non immaginava che gli inglesi controllassero buona parte del pianeta, come non sospettava che altri Fanguei fossero padroni di estese colonie in terre lontane, suddivise nei quattro continenti, come il capitano Somers si diede la pena di spiegargli il giorno in cui Tao Qian gli estrasse un dente infetto davanti alle coste africane. Portò a termine l'operazione impeccabilmente e quasi senza provocare dolore, grazie ai suoi aghi d'oro inseriti nelle tempie e a un'amalgama di chiodi di garofano ed eucalipto applicato sulla gengiva. Una volta che ebbe finito e che il paziente, alleviato e riconoscente, poté terminare la sua bottiglia di liquore, Tao Qian osò chiedergli dove fossero diretti. Lo sconcertava viaggiare alla cieca, con la vaga linea dell'orizzonte tra un mare e un cielo infiniti come unico punto di riferimento. «Andiamo verso l'Europa, ma per noi non cambia nulla. Siamo gente di mare, sempre in acqua. Vuoi tornare a casa tua?» «No, signore». «Hai famiglia da qualche parte?» «No, signore». «Allora non ti cambia niente se andiamo a nord o a sud, a est o a ovest, non è così?» «Sì, ma mi piace sapere dove sono». «Perché?» «Beh, perché potrei cadere in acqua o potremmo affondare. Il mio spirito avrebbe bisogno di sapere dove si trova per poter tornare in Cina. Altrimenti vagherebbe senza meta. La porta del cielo si trova in Cina». «Oh, che razza di cose ti vengono in mente!» rise il capitano. «E quindi per andare in paradiso bisogna morire in Cina? Ma guarda la cartina, su! Il tuo paese è il più grande, senza dubbio, ma c'è parecchio mondo anche fuori dalla Cina. Qui c'è l'Inghilterra. Non è che una piccola isola, ma se sommi tutte le nostre colonie vedrai che siamo padroni di più della metà del globo». «Ma com'è possibile?» «Oh, come abbiamo fatto a Hong Kong, con guerre e con imbrogli. Diciamo, con un misto di supremazia navale, avidità e disciplina. Non siamo superiori, ma semplicemente più crudeli e determinati. Non sono particolarmente orgoglioso di essere inglese, ma quando avrai viaggiato tanto come ho fatto io, neanche tu lo sarai di essere cinese». Nei 2 anni successivi Tao Qian mise piede sulla terraferma 3 volte, una delle quali in Inghilterra. Si confuse tra la grossolana folla del porto e camminò per le strade di Londra osservando tutte le cose nuove con gli occhi stupiti di un bambino. I Fanguei riservavano sorprese continue, Da una parte erano privi della benché minima raffinatezza e si comportavano da selvaggi, ma dall'altra erano dotati di prodigiosa inventiva. Constatò che anche nella loro terra gli inglesi manifestavano la medesima arroganza e cattiva educazione dimostrata a Hong Kong. Lo trattavano senza rispetto, non sapevano niente di cortesia o etichetta. Decise di bersi una birra, ma lo buttarono fuori a spintoni dalla taverna. «Qui i cani gialli non entrano», gli dissero. Subito dopo si unì ad altri marinai asiatici e insieme trovarono un locale gestito da un vecchio cinese in cui poterono mangiare, bere e fumare in pace. Ascoltando le storie degli altri uomini, calcolò quanto aveva ancora da imparare e decise che la prima cosa sarebbe stata l'uso dei pugni e del coltello. A poco serve il sapere se poi non si è in grado di difendersi. Il saggio maestro agopuntore si era dimenticato di insegnargli anche quel principio fondamentale. Nel febbraio 1849 il Liberty attraccò a Valparaiso. Il giorno successivo il capitano John Somers lo chiamò nella sua cabina e gli consegnò una lettera. «Me l'hanno data al porto, è per te, e viene dall'Inghilterra». Tao Chien prese la busta, arrossì e un enorme sorriso gli illuminò il volto. «Non dirmi che è una lettera d'amore», ironizzò il capitano. «Molto meglio», replicò mettendola al sicuro tra il petto e la camicia. La lettera poteva essere solo del suo amico Ebenezer Hobbs ed era la prima che gli arrivava nei 2 anni di navigazione. «Hai fatto un buon lavoro, Chien». «Oh, pensavo non apprezzasse la mia cucina, signore», sorrise Tao. «Boh, come cuoco sei un disastro, ma sai di medicina. In 2 anni non mi è morto un solo uomo e nessuno allo scorbuto. Sai cosa significa? Fortuna. E il tuo contratto scade oggi. Potrei farti ubriacare, farti firmare una proroga. Forse con un altro lo farei, ma ti devo dei servizi e io i miei debiti li pago. Vuoi continuare a viaggiare con me? Ti aumenterò lo stipendio». «Qual è la destinazione?» «California. Ma lascerò questa imbarcazione. Me ne hanno appena offerta una a vapore ed è un'opportunità che aspettavo da anni. Mi piacerebbe che venissi con me». Tao Chien aveva sentito parlare degli steamer e ne era terrorizzato. L'idea di enormi caldaie d'acqua bollente che producevano vapore e muovevano delle macchine infernali poteva essere venuta in mente solo a gente molto frettolosa. Non era meglio viaggiare sull'onda dei venti e delle correnti? Perché sfidare la natura? Correvano voci su caldaie scoppiate in alto mare che avevano cucinato vivo l'equipaggio. I brandelli di carne umana, bolliti come gamberi, erano stati sparati in tutte le direzioni in pasto ai pesci, mentre le anime di quei poveri disgraziati, disintegrate nei bagliori dell'esplosione e dei vortici di vapore, non si sarebbero mai potute riunire con i loro antenati. Tao Chien ricordava perfettamente l'aspetto della sorellina minore quando le si era rovesciata addosso la pentola d'acqua calda. Esattamente come ricordava i suoi orribili gemiti di dolore e le convulsioni che ne avevano accompagnato la morte. Non era disposto a correre un rischio del genere, neanche l'oro californiano, che a quanto pareva era sparpagliato a terra, come si trattasse di sassolini, lo tentava più di tanto. Non doveva niente a John Somers. Il capitano era un po' più tollerante della maggior parte dei Fangwei e trattava l'equipaggio con una certa equanimità, ma non era un suo amico e non lo sarebbe mai stato. «No, grazie, signore. Non hai voglia di vedere la California? Puoi diventare ricco in poco tempo e tornare in Cina, trasformato in un magnate?» «Sì, ma a vela. Perché i vapori sono più moderni e più rapidi?» Tao Chien non provò neanche a spiegare le sue motivazioni. Rimase in silenzio guardando a terra con il cappello in mano mentre il capitano terminava di bersi il suo whisky. «Non posso obbligarti», disse alla fine Somers. «Ti darò una lettera di raccomandazione per il mio amico Vincent Katz del brigantino Emilia, anche lui in procinto di salpare nei prossimi giorni per la California. È un olandese piuttosto particolare, molto religioso e rigido, ma è una brava persona e un buon marinaio. Il tuo viaggio sarà più lento del mio, ma magari ci vedremo a San Francisco e se ci avrai ripensato, potrai sempre tornare a lavorare con me». E il capitano John Somers e Tao Chien si strinsero la mano per la prima volta. Il viaggio. Raggomitolata nella sua tana nella stiva, Eliza iniziò lentamente a morire. Al buio e alla sensazione di essere murata viva si sommava il lezzo, un miscuglio tra l'odore del contenuto dei pacchi e delle casse, quello del pesce salato in barile e delle remore marine incrostate sul legno dell'imbarcazione. Il suo buon olfatto, così utile per aggirarsi nel mondo a occhi chiusi, si era trasformato in uno strumento di tortura. L'unica compagnia era quella di uno strano gatto a tre colori, sepolto come lei nella stiva per proteggerla dai topi. Tao Chien le aveva assicurato che si sarebbe abituata al tanfo e alla reclusione, perché in caso di necessità il corpo si abitua praticamente a tutto, e aveva aggiunto che il viaggio sarebbe stato lungo e che non avrebbe mai potuto affacciarsi all'aria aperta e che quindi tanto valeva non pensarci se non voleva impazzire. Avrebbe avuto acqua e cibo, le promise che si sarebbe incaricato lui di portarli tutte le volte che scendeva nella stiva, che scendere nella stiva non avesse destato sospetti. Il brigantino era piccolo, ma zeppo di gente, e non sarebbe stato difficile inventarsi qualche pretesto per svignarsela. Grazie. Quando saremo arrivati in California le darò la spilla con i turchesi. La tenga da parte, mi ha già pagato, ne avrà bisogno. Ma che ci va a fare in California? Vado a sposarmi. Il mio fidanzato si chiama Joaquin, la febbre dell'oro l'ha colpito e se n'è andato. Mi ha detto che sarebbe tornato, ma non posso aspettarlo. Appena la nave abbandonò la baia di Valparaiso e si trovò in alto mare, Eliza iniziò a delirare. Per ore rimase sdraiata al buio come un animale nel suo stesso sudiciume, stando così male da non riuscire a ricordare dove si trovasse né perché, fino a quando la porta della stiva si aprì e apparve Tao Chien, illuminato da un pezzo di candela, per portarle un piatto di cibo. Gli bastò darle un'occhiata per rendersi conto che la ragazza non sarebbe riuscita a ingoiare niente. Diede la cena al gatto, andò a cercare un secchio d'acqua e tornò per lavarla. Prima le diede un forte infuso di zenzero e poi le applicò una dozzina dei suoi aghi d'oro fino a quando lo stomaco non si fu calmato. Eliza non ebbe modo di rendersi conto che Tao Chien l'aveva denudata completamente, lavata dolcemente con acqua di mare e massaggiata dalla testa ai piedi con lo stesso balsamo raccomandato per i tremori della malaria. Poco dopo stava dormendo, avvolta nella sua coperta castigliana, con il gatto ai piedi, mentre Tao Chien in coperta sciacquava i suoi vestiti in mare, attento a non richiamare l'attenzione dei marinai che comunque a quell'ora riposavano. Diversamente da quanti provenivano dai 3 mesi di navigazione dall'Europa e avevano già superato la prova, tutti i passeggeri imbarcatisi da poco soffrivano il mal di mare come Eliza. Nei giorni successivi, mentre i nuovi passeggeri dell'Emilia si abituavano agli scossoni delle onde e si adattavano al tran tran che avrebbe caratterizzato tutta la traversata, nel fondo della stiva Eliza si ammalava sempre di più. Tao Chien scendeva tutte le volte che poteva per darle dell'acqua e per cercare di debellare la nausea, ma con stupore verificava che invece di diminuire il malessere aumentava. Cercò di curarla con i metodi tradizionali cui ricorreva in casi simili e con altri che improvvisò alla disperata. Ma Eliza non riusciva a trattenere quasi nulla nello stomaco e si stava disidratando. Le preparava acqua con sale e zucchero e gliela somministrava a cucchiaiate con infinita pazienza, ma trascorsero 2 settimane senza che si potesse apprezzare alcun miglioramento e arrivò un momento in cui la pelle della ragazza sembrava pergamena e lei non riuscì più a sollevarsi per fare gli esercizi che Tao le imponeva. «Se non ti muovi, il corpo si intorpidisce e le idee si offuscano», le ripeteva. Il brigantino toccò i porti di Coquimbo, Caldera, Antofagasta, Iquique e Arica e in tutte le brevi soste cercò di convincerla a sbarcare e a trovare la maniera di tornare a casa perché vedeva che si stava progressivamente debilitando ed era spaventato. Si erano appena lasciati alle spalle il porto di Callao quando la salute di Eliza subì un tracollo inevitabile. Tao Chien si era procurato al mercato una provvista di foglie di coca, le cui proprietà medicinali conosceva bene, e 3 galline vive che pensava di tenere nascoste e di sacrificare a una, dato che la malata aveva bisogno di alimenti più sostanziosi delle magre razioni previste. Cucinò la prima in un brodo di zenzero fresco e scese con l'intenzione di dare a Eliza la zuppa anche a forza. Accese una lanterna di sebo di balena, si fece strada tra le merci e si avvicinò alla topaia in cui si trovava la ragazza, che stava a occhi chiusi e sembrava non accorgersi della sua presenza. Sotto il suo corpo si estendeva una vasta macchia di sangue. Lo Jung-i lanciò un grido e si chinò su di lei sospettando che la povera disgraziata avesse trovato la maniera di suicidarsi. Non poteva biasimarla. In simili condizioni lui avrebbe fatto la stessa cosa, pensò. Le sollevò la camicia, ma non c'era nessuna ferita visibile e toccandola si rese conto che era ancora viva. La scosse fino a quando non aprì gli occhi. «Sono incinta», ammise lei alla fine con un fil di voce. Tao Qian si prese la testa tra le mani e si perse in una litania di cerimonie nel dialetto del suo villaggio natale, cui non faceva ricorso da 15 anni. Se l'avesse saputo, non l'avrebbe mai aiutata. Come poteva esserle venuto in mente di imbarcarsi per la California in stato interessante? Era pazza! Ecco cosa ci mancava, un aborto. Se moriva, lui era perduto. Bel pasticcio quello in cui l'aveva messo, che stupido, gli stava bene, come aveva fatto a non intuire il perché di tutta quella fretta di scappare dal Cile. Aggiunse imprecazioni e maledizioni in inglese, ma lei era svenuta di nuovo ed era al riparo da qualsiasi rimprovero. La prese tra le braccia e la cullò come un neonato, mentre la rabbia iniziava a trasformarsi in smisurata compassione. Per un attimo gli balenò l'idea di rivolgersi al capitano Katz e di confessargli tutta la storia, ma la reazione di questi era imprevedibile. Quell'olandese luterano che trattava le donne a bordo come attestate si sarebbe infuriato se avesse saputo che ne trasportava un'altra, nascosta e oltretutto incinta e moribonda. E a lui quale castigo avrebbe riservato? No, non poteva dirlo a nessuno. L'unica alternativa era attendere che Liza si spegnesse, se questo era il suo karma, e poi gettare il suo corpo in mare insieme alla spazzatura della cucina. L'unica cosa che poteva fare per lei, in caso l'avesse vista soffrire troppo, era aiutarla a morire con dignità. Si stava dirigendo verso l'uscita, quando, di pelle, avvertì una presenza estranea. Spaventato, sollevò la lanterna e vide con perfetta chiarezza, nel cerchio tremulo della luce, la sua adorata Lin, che lo osservava da vicino con quell'espressione scherzosa sul viso trasparente che costituiva il suo maggiore incanto. Indossava il vestito di seta verde ricamato con fili dorati, quello delle grandi occasioni, i capelli raccolti in un semplice chignon trattenuto da bastoncini d'avorio e due peonie fresche sulle orecchie. Così l'aveva vista l'ultima volta quando le vicine l'avevano vestita per la cerimonia funebre. L'apparizione della sposa nella stiva fu talmente reale che il panico lo colse. Gli spiriti, per quanto fossero stati buoni in vita, in genere con i mortali si comportavano crudelmente. Cercò di scappare verso la porta, ma lei gli sbarrò il passo. Tao Qian cadde in ginocchio, tremando, senza abbandonare la lanterna, il suo unico appiglio alla realtà. Accennò una preghiera per esorcizzare i demoni, nell'eventualità che avessero assunto la forma di Lin per confonderlo, ma non riuscì a ricordare le parole. E dalle sue labbra uscì solamente un lungo lamento d'amore rivolto a lei e di nostalgia per il passato. Allora Lin, con la sua indimenticabile tenerezza, si chinò su di lui, avvicinandosi tanto che se Tao avesse osato, avrebbe potuto baciarla. Egli sussurrò che non era venuta da così lontano per spaventarlo, ma per ricordargli i doveri di un medico rispettabile. Come Eliza, anche lei era stata sul punto di dissanguarsi dopo aver dato alla luce la sua bambina, e in quell'occasione lui era stato capace di salvarla. Perché non faceva la stessa cosa per quella ragazza? Cosa stava succedendo al suo amato Tao? Aveva forse perso il suo buon cuore e si era trasformato in uno scarafaggio? La morte prematura non era il karma di Eliza, gli assicurò. Se una donna è disposta ad attraversare il mondo sepolta in un buco infernale pur di ritrovare il suo uomo è solo perché ha molto ci. La devi aiutare, Tao. Se muore senza aver rivisto il suo amato, non avrà mai pace e il suo fantasma ti perseguiterà per sempre. Lo ammonì Lin prima di dissolversi. Aspetta, supplicò l'uomo allungando una mano per trattenerla, ma le sue dita si chiusero nel vuoto. Tao Qian rimase a lungo prostrato a terra, cercando di recuperare il senno fino a quando il suo cuore, sconvolto, smise di galoppare e il tenue aroma di Lin si fu dissipato nella cantina. «Non andartene! Non andartene! Non andartene!» ripeté mille volte in preda all'amore. Alla fine riuscì a rimettersi in piedi, ad aprire la porta e a uscire all'aria aperta. Era una notte tiepida, l'oceano Pacifico splendeva come argento sotto i riflessi della luna e una brezza leggera gonfiava le vecchie vele dell'Emilia. Molti passeggeri si erano già ritirati o giocavano a carte nelle cabine. Alcuni, per passare la notte, avevano appeso le loro amache tra il disordine delle macchine, i finimenti dei cavalli e le casse che riempivano la coperta, mentre altri si intrattenevano a poppa nella contemplazione dei delfini che giocherellavano sulla scia di spuma della nave. Tao Qian alzò gli occhi verso l'immensa volta celeste con gratitudine. Per la prima volta dalla sua morte, Lin l'aveva visitato senza ritrosia. Prima di intraprendere la vita da marinaio, l'aveva sentita vicina in varie occasioni, soprattutto quando sprofondava in meditazione, ma in quei momenti era facile confondere la debole presenza del suo spirito con la nostalgia di vedovo. Lin era solita passargli di fianco sfiorandolo con le sue dita sottili, ma a lui rimaneva il dubbio se fosse davvero lei e non un'invenzione della sua anima tormentata. Pochi minuti prima, invece, nella stiva, non aveva avuto dubbi. Il viso di Lin gli era apparso raggiante e preciso come quella luna sul mare. Si sentì accompagnato e felice come nelle notti del passato quando lei dormiva accoccolata fra le sue braccia dopo aver fatto l'amore. Tao Qian si diresse verso il dormitorio dell'equipaggio dove disponeva di un'angusta cuccetta di legno lontana dal giro d'aria che si infiltrava dalla porta. Era impossibile dormire in quell'aria rarefatta e pestilenziale, ma dalla partenza da Valparaiso non aveva mai dovuto farlo perché il clima estivo permetteva di sdraiarsi a terra in coperta. Cercò il baule che aveva inchiodato a terra per proteggerlo dai colpi delle onde. Si tolse la chiave dal collo, aprì il lucchetto ed estrasse la valigetta e un'ampolla di laudano. Poi sottrasse con cautela una doppia razione d'acqua dolce e in cucina cercò degli stracci che in mancanza di meglio sarebbero tornati utili. Stava tornando verso la stiva quando una mano si posò sul suo braccio. Si girò sorpreso e vide una delle cilene che, sfidando l'ordine perentorio del capitano di non farsi vedere dopo il tramonto, era uscita per sedurre qualche cliente. La riconobbe immediatamente. Di tutte le donne a bordo, Azucena Plathres era la più simpatica e la più coraggiosa. Durante i primi giorni era stata l'unica disposta ad aiutare i passeggeri in preda al mal di mare e si era anche occupata con dedizione di un marinaio che cadendo dall'albero si era rotto un braccio. In questo modo si era guadagnata perfino il rispetto del severo capitano Katz, che da allora aveva chiuso un occhio sulla sua indisciplina. I servizi di infermiera Azucena li prestava gratuitamente, ma chi osava mettere una mano sulle sue carni sode doveva pagare in denaro contante e sonante, perché il buon cuore non andava confuso con la stupidità. Diceva: «Questo è il mio unico capitale, e se non ne ho rispetto sono fregata», spiegava dandosi allegre manate sulle natiche. Azucena Plathres si rivolse a lui con quattro parole comprensibili in qualsiasi lingua: cioccolato, caffè, tabacco, brandy. Come faceva tutte le volte che si imbatteva in Tao, gli spiegò con gesti arditi il suo desiderio di barattare uno qualsiasi di quei lussi con i suoi favori, ma lo Chong Yi si liberò di lei con uno spintone e tirò dritto per la sua strada. Tao Qian trascorse buona parte della notte vicino alla febbricitante Eliza, lavorò su quel corpo esausto, con i limitati strumenti della sua valigetta, la sua lunga esperienza e una titubante tenerezza, fino a quando lei espulse un mollusco sanguinolento. Tao Qian lo esaminò alla luce della lanterna e riuscì a determinare con certezza che si trattava di un feto di diverse settimane e che era completo. Per pulire completamente il ventre, collocò i suoi aghi nelle braccia e nelle gambe della giovane, provocando le forti contrazioni. Quando fu sicuro del risultato, respirò sollevato. Rimaneva solo da chiedere l'intervento di Lin per evitare un'infezione. Fino a quella notte, per lui, Eliza rappresentava semplicemente un accordo commerciale e in fondo al suo baule c'era la collana di perle a testimoniarlo. Era solo una ragazza sconosciuta per la quale non pensava di nutrire alcun interesse personale, una fanguei dai piedi grandi e dal temperamento agguerrito cui sarebbe costato parecchio trovarsi un marito, dal momento che non mostrava desiderio di piacere né alcuna inclinazione per servire un uomo, questo era evidente. Adesso che era rovinata da un aborto non si sarebbe mai più sposata. Nemmeno l'amante, che tra l'altro l'aveva già abbandonata una volta, l'avrebbe desiderata come sposa, nel caso improbabile che un giorno fosse riuscita a trovarlo. Ammetteva che per essere una straniera Eliza non era del tutto brutta. Perlomeno c'era un lieve sapore orientale nei suoi occhi allungati e i suoi capelli erano lunghi, neri e lucidi come la coda orgogliosa di un cavallo imperiale. Se avesse avuto una diabolica capigliatura gialla o rossa, come le tante che aveva visto da quando aveva abbandonato la Cina, forse non le si sarebbe nemmeno avvicinato, ma né il suo discreto aspetto né la sua determinazione l'avrebbero aiutata. Il suo destino era segnato, non c'erano speranze per lei. In California sarebbe finita a fare la prostituta. Aveva frequentato molte di queste donne a Canton e a Hong Kong, doveva gran parte del suo sapere medico agli anni di pratica sui corpi di quelle sventurate, devastati da botte, malattie, droghe. Diverse volte nel corso di quella lunga notte pensò che, malgrado le istruzioni di Lin, forse sarebbe stato più nobile lasciarla morire, salvandola così da un orribile destino, ma era stato pagato in anticipo, si disse, e doveva rispettare il contratto. No. Questa non era l'unica ragione, ammise, visto che sin dall'inizio aveva messo in discussione i motivi che lo inducevano a imbarcare clandestinamente sulla nave quella ragazza. Il rischio era incalcolabile e non era sicuro di aver commesso una simile imprudenza solamente per il valore delle perle. Qualcosa nella coraggiosa determinazione di Eliza lo aveva commosso, qualcosa nella fragilità del suo corpo e nel selvaggio amore che professava per l'amante gli ricordava Lynn.